Intermezzo. Il passaggio 1775. Il ritmo delle oscillazioni era profondo e stringeva lo stomaco. L'aria entrava copiosa nelle narici, assecondando quel moto. Philippe Lacroix si cimentava in un singolare faccia a faccia con i gabbiani, intenti in meravigliose acrobazie. La mente era una buona volta sgombra, liberata dai gravami. Il corpo riacquistava vigore dopo l'immobilità forzata e i giorni di tempesta vissuti sotto coperta. Gesti semplici, essenziali. Respirare, percepire il battito e controllarlo, coordinare arti e cervello in movimenti fluidi, capaci di sciogliere la tensione accumulata. Appena giunto in cima, Lacroix aveva rivolto lo sguardo verso il basso, al ponte dell'Adamant. Si notava una certa attività, andirivieni di figure minuscole, non prive di grazia, l'eco distorta di ordini e imprecazioni ovattate e mangiate dal vento. Povera cosa gli umani osservati dall'alto, aveva rivolto l'attenzione altrove. L'oceano si allargava intorno, ovunque. Non provava terrore di fronte all'immensità. Sentiva il freddo rigido e tagliente, sentiva la forza della massa d'acqua. A un tratto avvertì una puntura di spillo, fitta leggera che saliva dai piedi. Guardò in basso. Scorse una figura molto piccola, sfocata. Cercò di individuarne i contorni, aiutato dalla luce maestosa del mattino. La figlia maggiore di Guy Johnson, Esther. La ragazza celava una forza singolare e primitiva. Il dolore e la ferita per la morte della madre la rendevano ancor più sensibile e vicina agli spettri, come Molly. Percepì una nuova presenza. Qualcuno saliva il grande albero. Joseph raggiunse la vetta e prese posto accanto a lui. Riempì i polmoni d'aria fresca. Lacroix seguitò a guardare l'oceano. «Credi che il re vorrà incontrarci?» «La regina incontrò Hendrik», rispose Joseph. «Hendrik era un capo. Tu sei l'interprete di Guy Johnson». «Non più», ribatté Joseph. «Sono l'ambasciatore della nazione Mohawk. Questa volta le parole che dirò saranno le mie, le nostre». Lacroix annuì, mentre i richiami dei marinai e dei gabbiani sostituivano le parole. «Abbiamo bisogno di giustizia», aggiunse Joseph a bruciapelo. «Giustizia inglese?» «I coloni che ci rubano la terra sono nemici di Re Giorgio. Questa ribellione è l'opportunità per ristabilire il nostro diritto». Joseph strinse il pugno per dare più forza all'idea. «I Sachem non lo capiscono. Pensano che le cose continueranno come sempre. Invece tutto sta cambiando». Rimasero di nuovo zitti, questa volta più a lungo, ad ascoltare il vento e guardare le vele che sporgevano panciute sotto di loro. Philippe Lacroix respirò ancora a fondo. Liberata dal puzzo degli uomini, l'aria salmastra non era male. Accennò un sorriso. Anche Joseph distese i tratti del volto. Per un attimo, fugace come la coda di un sogno, gli parve di essere di nuovo su una canoa, lungo il fiume che portava due giovani guerrieri verso l'età adulta. I marinai si spostavano veloci, qualcuno le sorrideva, ma la maggior parte non la vedeva nemmeno. Un enorme uomo nero che arrotolava una corda sul gomito le mostrò i denti candidi. Uno luccicava di metallo. Esther ebbe paura e si allontanò verso il castello di poppa. Si fermò sotto la scaletta, dove il vento non poteva stanarla. Sedette su un barilotto che qualcuno doveva aver messo lì per quello scopo. Dall'alto provenivano voci. Riconobbe quella di suo padre e dell'uomo con la gamba di legno, il signor Watson. «Faranno un grande effetto», stavano dicendo. «Ne andranno matti». Erano sopra di lei. Poteva sentire il rumore del passo sciancato, il tump tump sulle assi del ponte. Spinse il naso oltre il parapetto e guardò giù, nel blu profondo striato di schiuma. Immaginò i recessi tenebrosi che cullavano mostri. Si alzò in piedi sul barilotto. Lo sguardo precipitò tra le onde. Sollevò un piede fino al bordo. La massa scura la chiamava a sé. «Esther!» Un sussurro nelle orecchie, un battito di ciglia. Quanto bastò per vedere due occhi neri di donna specchiarsi nei suoi. Esitò. Poi udì un grido, un urlo vibrante dall'albero di trinchetto. «Terra, dritta di prua!» La ragazzina la vide. Un'ombra scura che si insinuava tra cielo e mare, interrompeva le onde e stabiliva una fine. L'altro mondo. Sul ponte l'agitazione contagiò tutti. Il capitano prese a strillare ordini. Qualcuno afferrò Esther per il braccio e la trascinò fuori dal nascondiglio. Per essere una donna minuta, zia Nancy aveva una presa forte. «Ecco dove ti eri cacciata! Fila di sotto! C'è da badare alle tue sorelle!» Il Il colonnello, Ethan Allen, grattò le croste di sporcizia dall'avambraccio. Non sentiva più il fetore dei corpi. L'olfatto aveva smesso di farci caso. Il trambusto in coperta l'aveva destato dal dormiveglia. Controllò le tacche incise sull'asse di legno. Sì, potevano essere in vista delle coste inglesi. Nella tana del lupo, pensò eccitato. Doveva escogitare qualcosa, spremersi le meningi. L'eroe di Ticonderoga non poteva certo sbarcare come un qualsiasi prigioniero. Serviva una frase memorabile, un discorso, qualcosa che potesse viaggiare di bocca in bocca, incendiare le polveri. Poteva appellarsi ai Whig della madrepatria. Patria? Le Green Mountain erano la sua patria. Ecco, forse era questo che doveva dire. Ma no, che ne sapevano del suo paese gli abitanti dell'Inghilterra? Abbasso i tiranni, era piuttosto questo il concetto. Quando l'avessero processato per tradimento, si sarebbe difeso pronunciando un discorso sulla libertà del popolo. Chi si ribella al tiranno non tradisce, ma serve la libertà. L'avrebbero trascritto e stampato in migliaia di copie. Ethan Allen della libertà. Un titolo che avrebbe fatto il giro del mondo. Allen si grattò la testa, snidando pidocchi. Scostò la mole di uno dei suoi uomini accasciato sul pavimento e provò a sgranchirsi le gambe. Due passi avanti, due indietro. Tanto era lo spazio a disposizione. Un mondo nuovo avanza nel cammino della storia. Suonava bene, ma i concetti astratti non potevano bastare. Bisognava evocare qualcosa di tangibile, che tutti potessero capire. Pestò una mano. Qualcuno protestò. Allen sferrò un paio di calci per guadagnare pollici e si appoggiò alla parete. Sopra la testa il trambusto continuava. L'Inghilterra era vicina. Rumore di paratie, vele ammainate, richiami. Allen pensò al ragazzo a cui si era arreso. Un mezzo sangue, niente meno. Aveva consegnato la spada a un bastardo. Strinse i denti per la rabbia e osservò la massa di teste chine. Eccoli lì, i patrioti. Un pensiero cominciò a prendere forma. Cos'era quell'insulsa isoletta, l'Inghilterra, al confronto dell'America? Il nuovo mondo, una grande nazione sorgeva dalle ceneri dell'impero. Sorrise per l'emozione. La feritoia della cella si aprì e il guardiano sbirciò dentro. «Allegro, colonnello!» dissero gli occhi gialli. «Siamo arrivati dove ti devono impiccare!» Le locande del porto avevano finito il gin prima di mezzogiorno. Era venerdì di mercato a Falmouth. In più, era giunta la notizia che le vele dell'Adamant stavano per entrare nel porto. Ad annunciare l'arrivo era approdata di prima mattina una scialuppa. Ne erano scesi dei marinai e un ufficiale. Quest'ultimo era entrato nei locali dell'ammiragliato e aveva visitato le prigioni. La voce si era sparsa. La nave portava con sé prigionieri, tra i quali Ethan Allen, il famigerato conquistatore di Fort Ticonderoga. Risultato? Per le strade la folla era divenuta calcavociante. Le vie fangose erano invece invase da venditori di brodaglie alcoliche, venditori di trippa e gamberoni, venditori di parrucche usate garantite senza pidocchi, bambini con mazzi di fiori, mendicanti, giocolieri, lustrascarpe di primo, secondo e terzo ordine. Richiami di strilloni di almanacchi si intrecciavano a cantilene di arrotini. I borseggiatori avrebbero guadagnato pane per un mese, nell'arco di poche ore. Quando si sparse la voce dell'approdo, la folla si mosse per accalcarsi sul molo. Nobili giunti dalle ville nei dintorni, popolani scalzi, servi in libera uscita, mercanti, marinai, contadini scesi per il mercato. Chi abitava le case, che si affacciavano sul molo, scese in strada a offrire posti d'eccezione per godersi lo spettacolo, lontani da urti, spintoni e gomitate. Il padrone di una segheria provò in fretta e furia ad allestire una tribuna. L'opera rimase incompiuta. Al primo rintocco del pomeriggio, l'adamanta ammainava le vele ed entrava nel porto. Una doppia fila di soldati si fece largo a calci e spinte. Quando il legno fu prossimo all'attracco, la folla ondeggiò. Molti sentivano che la posizione conquistata non era la migliore. I più discreti si limitarono ad alzarsi sulle punte, ma la maggioranza prese a dar di gomito, a destra e a manca, pestando piedi e cani da grembo scivolati alle padrone. Dopo molto trambusto, la massa raggiunse un precario equilibrio e trattenne il respiro. Eccoli. Sulla passerella avanzava un gruppo di uomini. Sembravano inglesi, ma alcuni avevano la pelle più scura. Al centro, più alto di una spanna, un uomo in catene. Ethan Allen. La folla cominciò a gridare, insultare, inveire. Partì un primo lancio d'ortaggi, ma nessuno voleva rischiare la reazione degli uomini di scorta. I soldati presentarono le armi. Il capitano che li comandava fece il saluto. Un uomo pingue e ben vestito uscì dal gruppo appena sbarcato e con accento irlandese proclamò: «Capitano, vi consegno 33 prigionieri, nemici del re e dell'Inghilterra, e il loro capo, Ethan Hallen. Egli si è arreso a questo coraggioso giovane, Peter Johnson, figlio del defunto commissario per gli affari indiani, Sir William Johnson. All'impresa hanno preso parte anche i capi irochesi qui presenti, fieri alleati del re, Joseph Brant Tagliandanega e Philippe Lacroix, Ronaterionte». Ci fu un boato di stupore e approvazione. Il capitano avanzò per prendere in consegna il prigioniero. Prima che i soldati lo trascinassero via, Ethan Hallen alzò la voce per sovrastare il rumore della folla. «Io sono il fuoco che consuma Babilonia! A morte tiranni!» Ethan Hallen sfilò sotto una pioggia di insulti e ortaggi andati a male.